Amy Goodman, giornalista americana fondatrice di Democracy Now!, tra le più importanti agenzie di stampa indipendenti statunitensi, ha presentato a Roma il suo libro Sacco al potere, la cui prospettiva è concentrata sul ruolo dei media, sempre più orientati al monopolismo informativo. Il suo focus non può che essere sui media nordamericani, non solo perché gli USA sono il paese più potente del mondo, ma soprattutto perché è da New York City che Democracy Now! Raggiunge più di 300 stazioni radio, televisive e satellitari nel mondo. La diffusione delle informazioni è via internet, il costo zero. La Goodman è una vera e propria giornalista d'assalto, tanto ad essere tra i pochissimi giornalisti presenti durante il colpo di Stato ad Haiti nel febbraio 2004, quando il presidente Harris Toss fu deposto con l'aiuto degli USA. Famoso il suo slogan, andare dove c'è silenzio e parlare, messo in atto tanto da essere bandita dalle forze dell'ordine indonesiane perché rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale. Il principio fondante di Democracy Now! È quello di non volere che le grandi corporazioni ingeriscano nell'informazione, negando il diritto alla stessa a milioni di persone. La sua denuncia forte è proprio contro i media americani, inghiottiti dalle grandi corporations, soprattutto di armi. Gli americani sono dei grandi consumatori di media ed hanno una gran fame di media indipendenti, dichiara ai nostri microfoni la stessa Goodman. Nel suo discorso Amy parla anche dell'ultima campagna elettorale presidenziale americana, dove per la prima volta sono stati invitati degli osservatori internazionali per controllare se ci fossero dei brogli. Ciò non è bastato perché i brogli sono stati evidenti, come ad esempio in un paesino del New England con 3.000 iscritti a votare si sono registrati ben 5.000 voti. I contributi a Democracy Now! Vengono dagli ascoltatori, da chi guarda i loro programmi televisivi e da fondazioni. Non accettano pubblicità, donazioni dalle imprese private o dal governo. Questa via li aiuta a restare indipendenti. Sentiamo Amy Goodman. Democracy Now! Is a daily national broadcast. I travel around the country in the last 4 weeks to more than 100 cities. Thousands of people come out across the political spectrum to talk about independent media in a time of war. This is not just one sector or one region. This is people who are fed up. The fact that Bush didn't find weapons of mass destruction in Iraq exposed more than him. It exposed a media that has acted as a conveyor belt for his lies. And that's got to change. We've got to unembed the media. We've got to break the relationship between the media and the military. We're supposed to be independent. We're supposed to go to where the silence is. We're supposed to hold those in power accountable. Lorenzo Nania per Amisnet.